voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Your appearance now is what we call residual self-image. It is the mental projection of your digital self. Thank you. È iniziata con gli Illal la seconda parte di Eclettica. Eclettica che è in onda tutti i giorni fra le 19 e le 20 sulle frequenze di Rock FM in compagnia di Giulio Caperdoni. Illal, band che quando decisi di inserire all'interno della programmazione della trasmissione non pensavo che avrebbero ricevuto l'interesse, il riscontro, insomma, che vi potessero piacere così tanto. Illal, band californiana con Esophagus appena ascoltati all'interno di Eclettica. È bello ogni tanto essere smentito in quelle che sono le mie previsioni su cosa vi possa e cosa non vi possa piacere. E proseguiamo invece con Pearl Carlsberg, artista svedese del quale già settimana scorsa ci eravamo ascoltati un estratto dal suo nuovo album, e questa settimana ce ne ascoltiamo già così subito un altro. I love you, you imbecile. Mentre uno sta vivendo la propria giornata mortale, è di estrema importanza conservare il capitale e non si dovrebbero mai spendere soldi per cose stupide, come il succo di pera o un cappello di oro massiccio. La ricchezza non è tutto, ma è molto meglio della salute. Dopotutto, non è che si possa andare dal macellaio e dire «Guardi che bella abbronzatura che ho!» E non solo, ma non prendo mai un raffreddore e aspettarsi che vi incarti del filetto. A meno che il macellaio non sia completamente idiota. La ricchezza è meglio della povertà, se non altro per ragioni finanziarie. Non è che possa comprare la felicità. Prendete il caso della formica e della cicala. La cicala aveva passato l'estate nell'ozio, mentre la formica aveva lavorato e risparmiato. Quando venne l'inverno, la cicala non aveva niente, mentre la formica lamentava dei dolori al petto. La vita è dura per gli insetti. E non pensate che i topi si divertano granché. La morale è che tutti dobbiamo portare in spalla il nostro fardello, ma è meglio farlo quando non indossiamo il vestito della domenica. Infine, teniamo sempre presente il fatto che è più facile spendere $2 che risparmiarne uno. E per l'amor di Dio, non investite mai dei soldi in nessuna impresa dove uno dei soci è soprannominato il Marsigliese. Questo era ancora I primi saggi da citarsi addosso di Woody Allen. È difficile dire perché i Tarantula AD, dopo aver pubblicato solo un EP e un album, abbiano deciso di cambiare nome. Di solito il cambio di nome coincide con il cambio della formazione, quando qualche membro di quelli originari se ne va. E nel caso in questione ci sono esattamente gli stessi tre membri della formazione originaria dei Tarantula AD. Oppure quando c'è un cambio dal punto di vista artistico, quando la musica è diversa rispetto a quella che proponevano con il vecchio nome. E anche in questo caso la musica è esattamente la stessa dei Tarantula AD e anche l'etichetta è la stessa. Quindi c'è da domandarsi come mai abbiano deciso di chiamarsi Pressed Bird. È un problema di poco conto rispetto alla qualità della musica, che è sempre quella che rappresenta il fattore più importante per chi appunto cerca di godere delle sette note. Season of the Sun è il titolo del brano che ci siamo ascoltati dal nuovo The Pressed Bird, non so se chiamarlo esordio a questo punto, comunque uscito nelle settimane scorse dal titolo In Your Time. In Your Time è il titolo dell'album. Eclettica, che prosegue sempre ovviamente in compagnia di Giulio Caperdoni con I Lyric in Love, che appena usciti invece è un po' una storia al contrario di quella che abbiamo appena raccontato. Appena usciti con questo disco pochi mesi fa si sono sciolti. And you open up your eyes, you're underneath the third class seat. And your yellow hair and purple eyes are bleeding defeat. And your mother always told you that freedom was just a lie. So I'm here to show you what life can be like. It's a day in the life of you. And feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's the day in the life of you. And now you're there and you laugh and smile so gleefully. There's an almost holy dancing in my soul with tears on my cheeks. And life is tragic and cruel, there's fire in the willow trees. Life is tragic and small, 'cause you forgot about me. It's a day in the life of you. There's no point in feeling blue. Don't tangle my words, I love you. It's a day in the life of you. The young dear lover, she hit the ground. The summer Cosa è meglio, amare o essere amati? Nessuno dei due, se il vostro tasso di colesterolo è più di 600. L'amore a cui mi riferisco è, naturalmente, l'amore romantico. L'amore tra uomo e donna, piuttosto che quello tra donna e bambino, o tra un bambino e il suo cane, o tra due camerieri di tavola calda. La cosa meravigliosa è che quando si è innamorati si ha voglia di cantare. Ma bisogna resistere a tutti i costi. E bisogna stare attenti che il maschio innamorato non dica le parole delle canzonette. Indubbiamente l'essere amati è diverso dall'essere ammirati, poiché si può ammirare qualcuno da lontano, ma per amare qualcuno è essenziale essere nella stessa stanza, almeno accovacciati dietro la tenda. Allora, per essere un amante veramente in gamba, si deve essere forte eppure tenero. Quanto forte? Immagino che dovrebbe bastare riuscire a sollevare un peso di 25 kg. Tenete anche presente che per l'amante, l'amata è sempre la cosa più bella del mondo, anche se un estraneo non la distinguerebbe da un bidone di spazzatura. La bellezza sta nell'occhio di chi guarda. E se chi guarda ha la vista difettosa, può chiedere alla persona più vicina quali sono le ragazze più carine. In verità, le più carine sono quasi sempre le più noiose ed è per questo che molta gente non crede in Dio. Questo era ancora I primi saggi da citarsi addosso di Woody Allen. Heard the sound from miles away, thumped in my ear like a drum. I was picked out of everyone, so I listened on. Took me out of a passion I'd imagined and sent me out on a search. If it hadn't rained so hard that night, I could have made it to your house by one. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to lose control. That night I felt like a vicious joke would have killed me all the way up to you. Day shone a little less light, so you rebuilt the moves. Taught me how to fall in my shadow, could have sunk me like a stone. But the stars shine brighter in the sky than the dust from the dirt below. But sometimes when you're walking alone, you feel your mind start to control. That night felt like a vicious joke would have killed me all the way Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 41, volume numero 4. Indice, Cosmic Rough Riders, Tide and Tickle Trio, Fujiya e Miyagi, Patrick Clendenin, Simple Kid, Shannon Wright, Illal, Pelle Karlberg, Shapes and Sizes, Priestbird, Lyric in Love, Lightning Dust. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda a domani, sempre alle ore 19, su Rock FM.